2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024. Benvenuti o bentornati. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook e Twitter e naturalmente sul nostro sito internet www.radio24.it. Trovate anche una pagina con tutti i nostri social e questo vale per tutti i nostri programmi. Dunque, in questa puntata parleremo di trasporti, di applicazioni e di taxi, parleremo anche di applicazioni e gastronomia, parleremo di droni, che sono un mezzo di trasporto, ma ancora non per le persone e per le cose, per il momento solo per alcuni tipi di servizi, ne parleremo in questa puntata. Allora, non c'è ancora nessuna novità sul piano banda ultra larga del governo. Ricordiamo che è stato approvato un piano strategico che poi necessita di un decreto attuativo o di più decreti attuativi o di un altro provvedimento che abbia valore di legge, che ne so, un emendamento in un'altra legge. Vedremo che cosa il governo proporrà. Il governo è al lavoro e nelle prossime settimane qualcosa succederà. Devo dire che siamo ottimisti, c'è un certo ottimismo. La cosa positiva è che oramai quasi tutti gli attori, tranne Telecom Italia, sono consapevoli della necessità di avere una rete il più possibile neutrale e con un forte controllo pubblico per garantire parità d'accesso a tutti gli operatori di telecomunicazione. Naturalmente questo non può essere, o meglio, potrebbe, ma visto il contesto in cui ci muoviamo, sicuramente non sarà il governo a imporre questa soluzione. Tutto gira attorno a MetroWeb, che potrebbe diventare un veicolo per partecipare ai bandi che poi il governo farà per posare la nuova rete in fibra ottica, e naturalmente se tutti gli operatori fanno parte di MetroWeb questo percorso è più semplice e facile. Comunque vedremo. Nel frattempo, il 31 marzo alcuni operatori, Telecom e MetroWeb in primis, hanno presentato le loro proposte non vincolanti per cablare il territorio, ma in mancanza di quel famoso decreto di cui dicevo prima, quindi dei meccanismi di erogazione delle risorse pubbliche, queste proposte hanno, diciamo, un significato puramente tattico. Il 31 maggio invece scadrà il termine entro il quale gli operatori dovranno presentare il piano definitivo. Poi vedremo se il 31 maggio sarà un termine che slitterà, ma il 31 maggio dovrebbero esserci questi decreti, quindi diciamo le regole del gioco dovrebbero essere chiare e quindi poi gli operatori faranno le loro proposte per cablare il territorio. Molto interessante è stata invece la risposta che l'antitrust ha dato al governo sul piano banda ultralarga. L'antitrust dice che le risorse pubbliche, quindi soldi pubblici, per la realizzazione delle reti a banda ultralarga non dovrebbero essere concesse agli operatori verticalmente integrati, cioè leggi Telecom Italia, che ha sia la rete che il servizio, quindi è integrato verticalmente. Il rischio, secondo l'antitrust, è che le risorse pubbliche si trasformino in forme di sussidio dei servizi che questi operatori erogano. E vabbè, questo è un tassello importante in questo complesso meccanismo che dovrebbe portare alla realizzazione di una banda ultralarga anche sul territorio. Quindi, per quanto ci riguarda come cittadini, beh, sappiamo che molti sono al lavoro, sia in ambito governativo ma anche a livello industriale, per mettere al posto giusto tutte le carte affinché prenda il via questo progetto nazionale. Vedremo, noi lo seguiamo settimana dopo settimana e naturalmente vi terremo informati. Allora, si è dimessa nel frattempo Alessandra Poggiani, che è stata direttrice dell'AGID, cioè l'Agenzia per l'Italia Digitale. Ora si cerca il sostituto, ma c'è anche chi chiede che le competenze vengano integrate all'interno della Presidenza del Consiglio. Vedremo anche questo. Prima della nostra Digital News diamo un'occhiata ai satelliti. Perché? Perché allora questa settimana, o meglio, alla fine della settimana scorsa, ma era il momento in cui andava in onda 2024, quindi non vi abbiamo informato perché non sapevamo l'esito, sono stati messi in orbita con un razzo Soyuz due nuovi satelliti della costellazione europea Galileo. Si tratta del numero 7 e del numero 8, hanno anche un nome perché ogni satellite Galileo ha un nome, Adam e Anastasia. Questa volta tutto è andato per il verso giusto. Sapete che i due satelliti precedenti erano finiti nell'orbita sbagliata, poi sono stati riposizionati, in qualche modo funzionano, ma questa volta è andato tutto per il verso giusto. Altri sei satelliti dovrebbero essere lanciati entro il 2015 e i primi segnali commerciali, quindi utili, dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2016. Il sistema dovrebbe invece essere completato nel 2020. Allora, sempre nel 2020 dovrebbe essere pronta anche la costellazione cinese Beidou, che proprio questa settimana si è arricchita del satellite numero 17 su un totale di 35. La Cina sarà dunque il quarto paese nel mondo ad avere una costellazione di satelliti per il posizionamento globale, oltre agli Stati Uniti, che hanno il più famoso GPS, quello che usiamo tutti noi, poi la Russia, che ha il GLONASS, l'Unione Europea, che avrà Galileo, e la Cina, che avrà appunto nel 2020 Beidou. Ci sono però altri due paesi che stanno costruendo un loro sistema di posizionamento, ma in questo caso si parla di un sistema di posizionamento locale e non globale, l'India e il Giappone. Anche l'India proprio questa settimana ha mandato in orbita il quarto dei sette satelliti di questa costellazione, questa mini costellazione che coprirà l'India e le zone limitrofe, il mare attorno all'India, insomma è un interesse prettamente locale. Adesso la nostra selezione di notizie in breve della settimana, le nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda l'Italia. Allora, dal 4 maggio fino alla fine dell'anno, Bergamo sarà un laboratorio per tentare di diffondere l'uso della moneta elettronica. Il progetto è stato presentato questa settimana, si chiama Cashless City, quindi città senza contante. Sono previsti premi per incentivare l'uso delle carte di credito. Da questa settimana gli utenti Android di WhatsApp possono anche telefonare ai propri contatti. L'aggiornamento per iOS dovrebbe avvenire la prossima settimana. C'è molta euforia, ma visto che oramai quasi tutti i piani di telefonia mobile legata ai dati comprendono pacchetti di telefonate con molti minuti, non capisco che vantaggio ci sia a telefonare con WhatsApp, però prendiamo atto. Il 30 marzo Jay-Z ha lanciato ufficialmente Tidal, il servizio di streaming musicale in alta qualità FLAC di cui abbiamo parlato nel 2024. Jay-Z ha coalizzato molti artisti famosi che puntano a fare di Tidal la loro piattaforma primaria. Quindi grazie a questa coalizione di artisti Jay-Z punta a far diventare molto più importante Tidal. Ora, oltre al noto piano tarifario da $20 al mese, c'è anche un piano da $10 che però non è lossless, quindi non è senza perdita, ha una qualità un po' inferiore, però hanno capito che forse $20, che sono poi 20 euro, non sono stati molto apprezzati dagli utenti, se non quelli che guardano come prima cosa alla qualità e non al costo dell'abbonamento. Barack Obama ha autorizzato il Dipartimento del Tesoro a colpire finanziariamente persone, gruppi o aziende che da paesi esteri conducano azioni di spionaggio industriale tramite internet, quindi il cyberspionaggio che abbiano lanciato attacchi digitali. Il cybercrime, dice Obama, è una delle sfide più serie che la nazione debba affrontare sia dal punto di vista economico che per la sicurezza nazionale. Finisce l'avventura di OnLive, che prometteva la rivoluzione nel settore del videogame. Il servizio di streaming di videogiochi chiuderà il 30 aprile e la tecnologia è stata acquisita da Sony, che la utilizzerà per PlayStation Now. Microsoft sta collaborando con la cinese Xiaomi per portare Windows 10 su un terminale pensato e nato per Android. Si tratta di un pezzo di software che si installa sul terminale Android, lo si fa partire e si installa Windows automaticamente. Questa è una ulteriore mossa di Microsoft per cercare di allargare la base degli utenti. Sempre per aumentare la base degli utenti, in questo caso Google ha pubblicato un programmino che permette di fare funzionare le app nate per Android anche sui computer che possono fare girare il browser Chrome, ma che quindi possono essere anche macchine che usano Windows, OS 10 o anche Linux. Abbiamo parlato recentemente di applicazioni o di servizi per prenotare il ristorante. Allora, c'è stata recentemente un'importante acquisizione in Italia di TripAdvisor per creare The Fork. Ci sono anche altri servizi di questo tipo, quindi applicazioni sullo smartphone o anche su internet con le quali si prenota il posto al ristorante. Ne abbiamo parlato appunto in occasione di questa acquisizione. Però se uno non vuole andare al ristorante, può farsi portare a casa il pranzo o la cena. Direte voi, ma da tantissimo tempo esistono servizi del genere. Uno dei classici a domicilio è la pizza. Ma negli ultimi anni devo dire che soprattutto nelle città portano a casa un po' di tutto. Naturalmente anche questo servizio si è digitalizzato e da tempo esistono anche in Italia siti web o applicazioni per prenotare un pasto a domicilio. Uno dei più noti è Just Eat, oppure Pizzabo, che è recentemente stata acquisita dai tedeschi di Rocket Internet, che puntano molto su questo settore, ma ne esistono anche altri di questi servizi a seconda della città. Allora, questi portali raccolgono ristoranti e pizzerie che hanno già una loro flotta interna per consegna a domicilio. Una startup chiamata MyMenu si spinge un po' oltre. L'ho incontrata questa settimana, ho partecipato a SMAO a Padova. Sapete che SMAO è itinerante in giro per l'Italia. E proprio da Padova parte questo servizio, che si è esteso anche a Modena per il momento. Questa startup ha fatto accordi con alcuni ristoranti in queste città e questi ragazzi si occupano direttamente delle consegne a domicilio. Ne ho parlato con Edoardo Tribuzio, che è il fondatore di MyMenu. Sì, da qualche anno in Italia, anche in Italia, si sono sviluppati tendenzialmente due modelli di business in questo settore della ristorazione a domicilio. E il primo è quello anche più diffuso all'estero. In che cosa consiste? Nella raccolta su un unico portale di vari esercizi, i quali hanno già una loro flotta interna, con i quali svolgono le consegne. La classica pizzeria che porta a domicilio le pizze. Esattamente, la pizzeria piuttosto che esercizi etnici come quelli che offrono i kebab e tutto il resto. Dall'altra parte ci sono invece dei servizi che raccolgono sì dei ristoranti, ma quali ristoranti? Dei ristoranti premium, ai quali i servizi stessi offrono di occuparsi di tutto quello che è l'aspetto della logistica per la consegna a domicilio. Quindi, grazie a una flotta interna, quali automobili, ciclomotori, motocicli ed attrezzature specifiche, permettono a ristoranti che fino a ieri hanno svolto la ristorazione tradizionale, si sono occupati di ristorazione tradizionale, di occuparsi anche del domicilio, senza dover fare nulla di più di quello che hanno fatto fino al giorno prima. Quindi il ristorante continua a fare il ristorante, esatto. E voi vi occupate di tutto il resto, cioè dell'ordine e della consegna. Esattamente, della gestione dell'ordine, di una gestione efficiente che non metta in difficoltà la cucina del ristorante, e poi di tutto il resto, quindi della ricezione appunto dell'ordine del cliente, della comunicazione, la trasmissione al ristoratore e poi del ritiro del pasto stesso, con conseguente consegna al domicilio del cliente, ovviamente offrendo un servizio premium per ristoranti premium. E secondo voi c'è un mercato anche in Italia? Beh, il mercato c'è assolutamente. Spesso mi chiedono la crisi, ma la crisi ha sicuramente ridotto i consumi, ma li ha anche razionalizzati. Tutti noi oggi spendiamo, magari se dobbiamo spendere un euro in più, vogliamo qualcosina in più, vogliamo un ritorno maggiore. Questo qualcosina in più cos'è? È la qualità del servizio. Quindi il driver decisionale oggi è anche la qualità, e soprattutto anche il contatto diretto che possono avere. Ad esempio, noi mettiamo a disposizione un servizio clienti per tutte quelle persone che non hanno ancora molta confidenza con tutti quelli che sono i sistemi, quali internet, app e tutto il resto. Perché sia con i nostri clienti sia con i ristoranti non è nostra intenzione catapultarli nel futuro, ma prenderli per mano e accompagnarli verso quello che saranno i servizi di domani. Fammi un esempio di come funziona il vostro servizio. Io sono un cliente, non voglio andare al ristorante, non ho voglia, non ho tempo, insomma, voglio avere a casa, invece che la classica pizza, ma magari anche voi consegnate la pizza, qualcosa di diverso. Come funziona? Molto semplice, l'utente accede al sito mymenu.it, oppure telefona, contatta appunto il nostro servizio clienti, viene guidato nella procedura. Però rimaniamo su internet, noi siamo internettari. Okay, okay. Perfetto, e il cliente accede al nostro portale web e trova una lista, trova subito delle spiegazioni su come svolgere l'ordine innanzitutto, e una lista di ristoranti. È sufficiente cliccare sul ristorante prescelto, inserire il proprio indirizzo per visualizzare quindi le condizioni. Stiamo parlando ovviamente di utenti nuovi, quindi non registrati. Sì, se uno è registrato c'è già tutto in memoria, se sappiamo già tutto. Esattamente, esattamente. Un cliente accede al sistema, sceglie il ristorante, inserisce l'indirizzo, seleziona i piatti di sua preferenza, indicando, molto importante, anche eventuali note, quindi quali magari eventuali le intolleranze, alcune preferenze che si possono esprimere riguardo ai piatti. Non voglio il pepe, voglio poco salato, ben cotto, bla bla bla. Esattamente, una volta che ha selezionato i piatti gli viene mostrato, beh, c'è un carrello interattivo che lo segue, quindi anche il cliente sa sempre esattamente al centesimo quanto sta spendendo, che è molto importante, massima trasparenza. Al termine dell'ordine, quindi conferma i piatti che ha scelto, al termine dell'ordine inserisce i suoi dati, nome, cognome, indirizzo e tutti gli altri dati utili per la consegna, quindi seleziona un orario, il suo orario preferito. Noi consegniamo all'interno di intervalli di 30 minuti, all'interno di quali abbiamo la garanzia al 100% di riuscire a consegnare, quindi anche ci teniamo appunto quell'intervallo di 30 minuti anche per eventuali problematiche legate al ristoratore che potrebbe essere particolarmente pieno in quel momento, e variabili legate alla logistica dell'ultimo miglio, che è quella di cui ci occupiamo noi, che sono sempre incontrollabili, però appunto sa che in quell'intervallo di 30 minuti sicuramente la cena o il pranzo in ufficio o a casa vengono serviti. E voi mi garantite che quello che ho ordinato arriva come fosse consegnato dal cameriere? So che ci può essere molta riluttanza a riguardo, e infatti noi abbiamo fatto il nostro slogan che serviamo a casa come se si fosse seduti all'interno del ristorante, ma quello su cui abbiamo puntato noi fin dall'inizio e quello che mi verrebbe da risponderti anche adesso è provare per credere. Quindi anche all'inizio non abbiamo attuato strategie di marketing legate a far conoscere il servizio, bensì a far conoscere e provare il servizio, perché solo provando uno si può rendere veramente conto di cosa stiamo parlando. Sì, tenendo conto che in questo momento è solo a Padova e a Modena, però state espandendolo in altre zone d'Italia, giusto? Sì, esattamente, ci stiamo espandendo, ovviamente abbiamo sviluppato il nostro modello di business e le nostre best practices, quindi siamo anche pronti, e lo stiamo già facendo, ad aprire in altre città italiane. Una cosa del genere è nata guardando a esperienze all'estero o non tanto? Cioè, come sta il mercato internazionale? Ma il mercato internazionale è più orientato verso quel modello di business di cui parlavo prima, ovvero quello dei marketplaces, quindi quei servizi che non fanno altro che raccogliere su un unico portale tanti esercizi che svolgono già direttamente il servizio di domicilio. È chiaro che anche in Italia, quindi i primi che hanno preso piede sono quella tipologia di servizi, che si parla addirittura dal 99, quando sono apparsi i primi servizi simili. E però la tendenza appunto è quella di andare verso una direzione diversa, e la direzione diversa può essere nella direzione della qualità anche del servizio. La qualità del servizio può essere garantita solo dal modello di business come MyMenu, ma non siamo gli unici ovviamente a farlo nel mondo. Come MyMenu perché? Perché si parla di una situazione a domicilio controllata e verificata, quindi che il cliente sa come gli arriva il pasto e il pasto gli arriverà sempre in quel modo lì, qualsiasi ristorante dal quale lui ordinerà. E questa è una evoluzione, una possibile evoluzione di un mercato che anche grazie alla tecnologia sta cercando nuove opportunità di business. Naturalmente questa è una idea, quella della classica consegna a domicilio con propri mezzi è un'altra idea, un'altra soluzione, magari incentivata grazie all'uso di internet, quella della prenotazione dei tavoli grazie ad internet è un'altra modalità, ma anche in questo settore la tecnologia può essere utilizzata e plasmata anche e soprattutto grazie alla creatività e alla fantasia. Tra poco parleremo di un altro settore che sta cambiando proprio grazie alla tecnologia, che è quello dei taxi. Adesso invece parliamo di droni, un altro tema interessante a proposito di tecnologia. Compie un anno e si rinnova il regolamento ENAC che permette, che mette ordine nel settore dei cosiddetti aeromobili a pilotaggio remoto, che noi conosciamo come droni. Però il termine tecnico è questo. Allora, noi torniamo a parlare 2024 con Sergio Barlocchetti di Drone Italy. Bentornato a 2024. Grazie. Sergio Barlocchetti è uno degli animatori di Drone Italy. Scrivi su Drone Italy, che è non solo un blog ma anche una fiera. È diventata una manifestazione, anzi è diventata la manifestazione di riferimento in Italia. Per i droni. Siamo molto contenti, sì, per il mercato dei droni. Tornerete live, come si dice, dal vivo il prossimo settembre. Sì, 25-26 settembre ci sarà questa seconda edizione a Total Expo qua a Milano. Siamo molto contenti di questa cosa. Senti, questo è un settore, lo possiamo già definire un settore, c'è già un mercato quando parliamo di droni? Lo possiamo definire un settore dell'aviazione, ed è un settore trasversale che non ha dei confini precisi, perché si basa molto sull'elettronica, sul software, sulla componentistica, eccetera. Quindi è difficile dargli dei confini. Nessuno stato al mondo che abbia tentato di regolamentarli è riuscito comunque a dargli dei confini precisi, a meno che, come Abu Dhabi, ha proprio vietato la vendita, nei negozi. Addirittura? Sì. Ricordiamo che la vendita è sempre libera in questo momento in Italia e in Europa, ma l'uso è regolamentato. Esatto, poi magari parliamo anche di questi regolamenti che si dividono tra il mondo professionale e il mondo del gioco, sostanzialmente, esatto. dell'hobby, dell'aeromodellismo, perché di fatto stiamo parlando di aeromodelli. Quando parliamo di droni, ad oggi facciamo spesso riferimento a delle specie di elicotteri con 4, 6, 8 rotori, giusto? Esatto, in realtà qualsiasi oggetto volante con qualsiasi configurazione, esistono ispirati agli elicotteri piuttosto che ai multirotori, come hai detto tu, ma anche agli aeroplani ad ala fissa, sostanzialmente sono degli aeroplani a vedersi, piuttosto che anche a degli aerostiti o degli ibridi. Possono avere, per esempio, un involucro da aerostato, ma poi avere delle eliche orientabili che ne permettono il movimento in aria. Senti, io ho letto dei dati quasi sorprendenti. È vero che ci sono 5.000, non so se droni o operatori di droni, addirittura già in Italia? Poi vediamo quelli che sono in realtà certificati, che possono farlo con un patentino. Allora, diciamo che ci sono qualche migliaio di persone che si avvicinano a questo mondo o che utilizzano a vario titolo questi oggetti. Però sono comprensivi di quelli che ci giocano con i droni. Sì. Gli operatori, i professionisti in Italia riconosciuti, accreditati all'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile sono 89 oggi. Chiaramente molti di più vorrebbero farlo, mercato ce n'è. Dobbiamo pensare che con il regolamento, la prima versione del regolamento, che ha 12 mesi, compie un anno adesso, prima che uscisse la seconda da pochi giorni, circa la metà delle richieste di lavoro non sono state evase per problemi di tipo legale, regolamentare. Sì, quindi non è, almeno per la parte medio-alta del mercato, non è un gioco. Assolutamente, ma non lo è neanche per chi, per il papà che lo compra. Ci sono dei risvolti, che poi, se vuoi, di cui parliamo, sicurezza. Sì, diciamolo subito, per chi pensasse di acquistare, visto che purtroppo per fortuna dipende. No, se ne vendono circa 200 al mese in Italia di oggetti di questo tipo. Allora, il papà che lo regala al ragazzino e andiamo a giocare insieme, sì. Nelle strutture atte, quindi campi del modellismo, campi volo o aviosuperfici per ultraleggeri, chiedendo il permesso al gestore, strutture sportive noleggiate ad hoc, indoor possibilmente, quindi sotto i palloni è perfetto. Attenzione al famoso festa in giardino, mi riprendo la festa e metto il filmato su YouTube. Se io lo faccio e non mi accorgo e vado a riprendere il giardino accanto e guarda caso lì c'è un collaboratore di giustizia protetto, faccio un disastro. Magari dovrei saperlo, ma chissà. Però certi problemi di privacy sono problemi. La privacy è uno E poi è anche potenzialmente pericoloso, perché se cade in testa a qualcuno, questo sempre, sì, tant'è che per chi ci lavora è obbligatoria l'assicurazione. Esatto. A questo punto, appunto, spostiamoci nel mondo professionale. Sostanzialmente, che differenza c'è tra un drone proprio inteso come macchina, giocattolo, e un drone invece professionale? Allora, diciamo che l'Europa ha diviso i giocattoli dai non giocattoli con un peso, 500 grammi al massimo è un giocattolo, e un'interfaccia di pilotaggio che possa essere utilizzata da un ragazzo di 14 anni, esattamente come vediamo le età riportate sulle scatole dei giocattoli. Okay. E questo è per l'Europa un gioco. L'Italia ha al momento ha un regolamento che invece divide chi ci lavora da chi non ci lavora. Indipendentemente dal peso. Indipendentemente dal peso. Naturalmente le classi sono sotto i 2 kg, fino a 25 kg, oltre 25 kg. Chiaramente chi ha un drone di 10-15 kg è anche una persona che fa modellismo, aeromodellismo a un certo livello, quindi sa che ci vogliono i 30 euro di assicurazione della federazione e va nelle strutture apposite. Lavorarci non è ovviamente un gioco, però la richiesta nel mercato c'è per eseguire determinate missioni. Questo è un pilota a tutti gli effetti. Pilota cosa vuol dire? Questo bisogna essere molto chiari. Si chiamano sistemi aerei a pilotaggio remoto, sono aeromobili. E se tu sei il pilota di un aeromobile, tutto quello che fai lo fai in rispetto del codice di navigazione. Attualmente, per esempio, c'è stato un problema legale, si è posto questa questione. Il regolamento sanzionatorio deriva dalla violazione degli articoli del codice di navigazione. Quindi, purtroppo, se un papà col bambino prende il drone giocattolo e va in piazza a giocarci, può arrivare quasi a 40.000 euro di multa senza assicurazione, perché non sa che sta violando, diciamo, degli articoli del codice di navigazione. Ecco, chi lavora a queste cose invece le studia, le deve studiare nel percorso di accreditamento. Adesso poi da maggio in poi ci sarà una vera e propria patente, ci sarà un attestato di pilota remoto sotto i 25 kg per macchine sotto i 25 e una licenza di pilota remoto sopra ai 25 kg. Nell'anno che è appena trascorso invece c'era un percorso di accreditamento pratico, teorico, eccetera, comprensivo di visita medica. Certo, perché il pilota è un pilota. Il pilota è un pilota, certo. Bene Sergio, adesso ci fermiamo, questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, continueremo a parlare di droni tra poco, poi dai droni ripassiamo al mondo delle app, ma parleremo di taxi, perché quello è sicuramente un settore molto interessante a proposito di cambiamento suggerito, diciamo così, dalla tecnologia. A tra poco. 2024, disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, abbiamo parlato di gastronomia e di tecnologia, adesso parliamo di droni. Questo è un settore che sta nascendo proprio in questi anni. Ne stiamo parlando con Sergio Barlocchetti, una vita dedicata al volo, non solo come giornalista, ma anche proprio nella cabina di pilotaggio degli aeroplani. Sergio Barlocchetti scrive per Drone Italy, che oltre che un sito internet che si occupa di droni, è anche una fiera che, come dicevamo, a settembre presenterà il mondo dei droni. Dunque, Sergio, stiamo ancora su un punto importante, stiamo parlando di strumenti ad oggi, questi droni, queste sorte di elicotteri con più rotori, con quattro rotori, e sono i quadricotteri, gli esacotteri, eccetera eccetera, poi non so nemmeno più come si chiamano quelli a più rotori, ma diciamo vengono pilotati in remoto, ma si devono vedere. Esatto, allora le operazioni che vengono autorizzate in questo momento sono per lo più, si chiamano VLOS, Visual Line of Sight, cioè il pilota ha sempre in vista direttamente il proprio mezzo. Quindi siamo ancora lontani da alcuni scenari che ogni tanto ci vengono dipinti con i droni che magari fanno una consegna di un pacco in modo automatico. Esatto, è giusto sperimentarli laddove sia possibile. L'ente, l'autorità aeronautica americana, l'FAA, ha appena autorizzato Amazon a testare, a provare, insomma a fare dei test di pick up e di release di pacchi, ma lo fanno dove? Dove non vola nient'altro, dove non ci sono città. Nel deserto. Praticamente sì. ci sono due problemi grossi da risolvere. Il primo è proprio quello del VLOS, cioè di andare poi in condizioni BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, cioè oltre la visione, e adesso lo fanno solo determinati droni che sappiamo essere di dimensioni e scopi militari, civili, ma comunque cose, diciamo, per ricerca e sviluppo, eccetera, e su grosse dimensioni. L'altro è il sense and avoid, cioè queste macchine, se devono andare in giro da sole, sostanzialmente, devono poter vedere ed evitare altri oggetti volanti. E quindi finché non verrà certificato, consacrato, e c'è un programma europeo apposta, si chiama JARUS, proprio per l'integrazione di queste macchine automatiche nello spazio aereo comune, finché questa cosa non sarà consacrata, non si può fare. Scordiamoci la pizza recapitata con il quadricotto. Senti, tra poco ti chiederò che cosa ci si fa oggi con i droni, almeno a livello professionale. Prima ti volevo fare una domanda sul... non scendendo nel dettaglio del regolamento, ma l'Italia mi sembra che sia in questo settore, non so se dire all'avanguardia, comunque messa piuttosto bene, perché l'ENAC ha regolamentato il settore, insomma mi sembra anche che gli operatori siano soddisfatti. Beh, gli operatori non lo sono mai per definizione, perché quando poni un paletto alla fine è sì, un muro, certo, che hai messo da girare o da superare, insomma. L'ENAC in 2 anni ha scritto 2 regolamenti, uno, diciamo così, il primo, che è stato in vigore per tutto il 2014 e ha presentato la settimana scorsa quello per il 2000, quello futuro, insomma. Sì, cambia la figura del pilota e dell'osservatore, cambiano le classi, ci sarà una classe semplificata sotto i 2 kg. L'Italia, diciamo, in questo senso è arrivata prima di molti altri stati, prima dell'Inghilterra, per esempio, che li tratta da aeromobili a tutti gli effetti, imponendone la certificazione. Certificazione vuol dire che ogni componente deve essere provato per avere un'affidabilità che arriva a una failure ogni 1 milione di ore di funzionamento. Poi abbassata a 1 ora ogni 10.000 per altre componenti. Ma questo cosa vuol dire? Che una volta scelto il data link, il tipo di data link di autopilota, di sistema, di struttura, si congela quella configurazione e non è possibile evolvere. Mentre per definizione questo settore ogni 6 mesi è stravolto dal nuovo chip, dal nuovo software. Ecco, noi siamo stati più lungimiranti di questo tempo, perché il nostro regolamento non pone queste limitazioni e non dovrebbe mai porle, in sostanza. Sì. E quindi sì, siamo stati anche di ispirazione per altri regolamenti. Poi qualche paese ha applicato cose abbastanza furbe. La Francia li ha codificati in tipo di operazione, lettere e numeri, una specie di matrice. Uno dice: io lavoro in B2, in C4, cioè un po' più facile. Ma non sarebbe possibile fare un unico regolamento europeo? E ci stanno pensando. Alla convenzione di Riga 10 giorni fa è proprio venuto fuori questa faccenda, e sostanzialmente l'Europa però ha messo insieme un po' tutti i regolamenti e ha dato delle linee guida generali, non è ancora entrata nello specifico. Parliamo che quando parliamo di Europa parliamo di EASA, la European Aviation Safety Agency, che è formata comunque da tutte le autorità nazionali, quindi anche dal nostro ENAC. Quindi anche qui siamo un po' lontani dall'Europa unita, veramente. Ci stanno provando, però abbiamo un grosso problema. Già tutto quello che si scrive va discusso in 28 lingue. ma ci sono delle parole, per esempio, che proprio la difficoltà sta in questo, permettimi. Quando si parla, per esempio, di sicurezza, noi italiani parliamo di sicurezza. Poi bisogna distinguere la safety dalla security. Ah certo, quindi quale altre... problema? Sì, abbiamo tutti e due i problemi, però insomma. Senti, per farci che cosa? A cosa servono queste macchine? Queste macchine estendono i sensi dell'uomo dove l'uomo è meglio che non ci sia, o è opportuno che non ci vada. O non riesce ad andarci. O non riesce ad andarci. Sì. Per esempio, chiaramente possiamo fare riprese da punti privilegiati, questo l'abbiamo visto, lo vediamo in TV e nel cinema. Questo è uno dei grandi classici. Insomma, esatto, è un grande classico. Però che fa? L'importante è ricordare che il drone non è il fine, è il mezzo che trasporta un sensore. Questo sensore può essere di vario tipo. Per esempio, possiamo andare a vedere l'evoluzione di una frana in modo capillare, senza mandarci la persona. Possiamo, se c'è una perdita di una grossa conduttura, per esempio, che trasporta metano o gas, c'è una perdita dove si potrebbe innescare un incendio, può andare il drone ad annusare senza mandarci l'uomo. Possiamo, per esempio, fare agricoltura di precisione, e questo è qualcosa che noi italiani stiamo addirittura esportando, cioè stiamo andando all'estero a fare. Che cosa significa fare agricoltura di precisione? Allora, fare agricoltura di precisione vuol dire poter analizzare l'andamento della coltivazione innanzitutto senza toccarla, proprio usando questi sensori, e avere una risposta che poi i computer elaborano grazie alla riflazione della coltivazione a determinati tipi di frequenze piuttosto che di spettri elettromagnetici, e poter vedere che in un campo, in un angolo, in un certo orientamento, per esempio, la coltivazione va bene, in un'altra manca di azoto e in un'altra ancora c'è un infestante. Quindi andare a fare degli interventi puntuali. Successivamente sì, poter fare degli interventi di diserbo, per esempio capillare, senza inquinare tutto il campo. Naturalmente questo non piace alle aziende che producono anticrittogrammici inizialmente, perché certo, naturalmente perché si riduce la quantità, certo. Però è più sano per il pianeta, e soprattutto poi queste aziende in realtà sono le prime che hanno capito e quindi hanno investito in questo tipo di sensoristica. Pensiamo alle nostre coltivazioni di riso in Italia, per esempio, e in altri tipi di coltivazioni pregiati, le viti, tanto per esempio il vino ne fa hanno cominciato a usarli in modo opportuno, ma soprattutto lo esportiamo, pensiamo alle coltivazioni ucraine piuttosto che nel Sud America, dove gli appezzamenti sono sconfinati. Altri tipi di applicazione ad oggi? Beh, innanzitutto non esistono soltanto i droni volanti. il grossissimo mercato, il nostro è un pianeta d'acqua, per esempio, è nei sommergibili. Ah. Nei droni sommergibili noi sappiamo perfettamente che cos'è una piattaforma petrolifera, non si vede, ma c'è, ci sono dei droni che si staccano la sera dalle piattaforme, analizzano che non ci siano perdite piuttosto che fessurazioni, piuttosto che problemi agli impianti sommersi, e la mattina dopo scaricano all'operatore che si è appena svegliato in modo automatico che quello che hanno visto. Quindi questi sono automatici? E sono automatici, ma stanno sotto il mare. Ah, e stanno nelle, diciamo, immediate vicinanze della piattaforma, piuttosto che invece percorrono chilometri e chilometri di tubature sommerse alla ricerca di perdite, le individuano, dopodiché si va a fare un intervento mirato senza poi la nave che deve percorrerla tutta. Quindi immagino che appunto fra qualche anno, non so quanti anni, ma questo è difficile prevederlo, questo succederà anche per i droni volanti, che in automatico percorrono migliaia di chilometri, magari di tubature. Esatto. Ci sono degli studi in corso su determinati tipi di missioni molto precise. Una che piace tantissimo è l'antincendio. Pensiamo al rischio del pilota antincendio e al limite del fatto che, per esempio, di notte non può operare sostanzialmente, perché deve vedere dove sgancia. Sì, sì. Immaginate invece un sensore che va a sganciare sul punto più caldo in modo autonomo. Okay. D'altro canto, il trasporto di organi, che oggi coinvolge tantissime persone, dall'espianto al reimpianto, l'aeroplano che porta l'organo, eccetera, gli equipaggi, eccetera, esponendo anche dei rischi. Pensiamo invece tra 25 anni, ma prima non lo vedo, sinceramente questa cosa, l'aeroplano in modo automatico trasporta quello che deve trasportare. Ecco, tra queste cose, chiaramente molta ricaduta arriva dal settore militare, dove i droni stanno di fatto. C'è stato anche un film famoso, The Good Kill, l'anno scorso, che parlava proprio dei problemi di coscienza di un pilota che timbrava il cartellino, si sedeva in ufficio, sostanzialmente ammazzava delle persone. Sì. Quindi abbiamo anche problemi. Forse l'umanità non era proprio preparata a questa evoluzione. Sì, sicuramente questo riguarda, insomma, in generale le macchine autonome, l'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. In questo settore c'è lavoro o non esageriamo? Perché a volte pare che sia uno dei nuovi territori di conquista. Dunque, c'è lavoro direttamente, nel senso, lavorare per un'azienda che fa droni o usa droni ha una sua dimensione, sostanzialmente. Ce ne sono anche in Italia. Sì, sì, ce ne sono. Questi 89 operatori danno lavoro. Sì, quello che anche nella produzione di droni. Sì, sì, sì, sì, c'è. Sì, sì. Laddove invece si amplia è che questo, come dicevo prima, dal punto di vista informatico, elettronico, piuttosto che di ricerca e sviluppo, questo è un settore irrefrenabile, e quindi a cascata si apre una piramide che va ad abbracciare tutti i settori. Quindi un'azienda elettronica che fino a ieri faceva accelerometri piuttosto che sistemi di automazione per un certo tipo di industria, si può trovare coinvolta ad investire e poi guadagnare specializzandosi, per esempio, in un autopilota, piuttosto che in un altro senso. Adesso, uno dei sistemi, per esempio, che servono sui droni di un certo tipo è il terminatore. E se perdo il controllo del drone, devo poterlo abbattere per non farlo andare in... Cioè, abbattere intendi farlo atterrare? Farlo cadere. Ah, farlo cadere. In modo magari controllato, eccetera. E si chiamano sistemi di terminazione. Ci sono delle aziende che si stanno specializzando in sistemi di terminazione. Molto interessante. Sergio, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto, perché questo è un settore ricco di novità, quindi ti aspettiamo per altre novità nei prossimi mesi. A presto. Arrivederci. Questa settimana il garante della privacy si è dovuto occupare del famoso, oramai famoso, diritto all'oblio. Sapete che lo scorso anno, praticamente quasi un anno fa, perché a maggio dello scorso anno, la Corte di Giustizia Europea aveva imposto ai motori di ricerca, e quindi in pratica buona parte delle sentenze poi riguardano Google, di rimuovere alcuni risultati di ricerca in alcune particolari situazioni quando un utente della rete lo avesse richiesto. I casi tipici sono quando uno, dopo tanti anni, magari è stato coinvolto tanti anni prima in un caso che poi è andato sulle cronache, magari un caso giudiziario, poi questo caso si è risolto in tutt'altro modo, magari la persona è stata assolta oppure non è nemmeno stato fatto un processo, e quindi questa persona chiede di rimuovere alcune notizie che vengono riportate, vengono trovate sui motori di ricerca, che associano magari quella persona, a volte anche in modo non corretto, ad un'operazione, a un reato, eccetera, eccetera. Una persona si è rivolta a Google, ma non è stata rimossa la notizia, e questa persona si è poi rivolta al garante della privacy. In questo caso anche il garante della privacy ha detto che il diritto all'informazione prevale su quello all'oblio, considerato che il resoconto giornalistico è recente e le notizie riportate erano corrette. Però per la prima volta si è intervenuto sui cosiddetti snippet, ovvero quei riassunti di poche righe che appaiono sotto i risultati di una ricerca, quando appunto c'è tutta la lista delle ricerche, c'è un breve riassunto. Allora, in questo caso effettivamente c'erano dei riferimenti a quella persona fatti in modo non corretto, ma del resto quel riassunto viene fatto in maniera automatica dai computer. Però per la prima volta il garante privacy interviene anche su questi snippet che invece sono che invece secondo il garante dovrebbero essere cambiati nel caso specifico. È molto interessante, insomma, se siete o del ramo o siete curiosi, cercate le notizie sul Sole 24 Ore, se ne è occupato questa settimana, il 1 aprile, e quindi la notizia è stata approfondita anche sul Sole 24 Ore, la trovate anche online. Adesso parliamo di taxi, anzi lo facciamo tra pochi secondi, questo è 2024, adesso ci fermiamo, ci sono le notizie che riguardano strade e autostrade, riprendiamo tra poco. 2024. Adesso parliamo del settore taxi, che rappresenta un buon esempio, molto interessante di come le app possono cambiare il modo di lavorare e di offrire un servizio al cliente. Allora, sapete che lo smartphone è diventato il telecomando della nostra vita e questo vale anche in questo settore, ma lo usiamo come esempio, poi uno può prendere spunto per capire come le cose possono essere applicate in molti altri settori. Barbara Covili, General Manager di MyTaxi Italia, benvenuta, grazie per essere con noi. Grazie, benvenuti a voi. Che cos'è MyTaxi? Allora, intanto devo dire che mi è piaciuta molto la tua definizione telecomando smartphone, il telecomando della nostra vita, sì. Che è così in effetti. MyTaxi è un'applicazione che è nata nel 2009 in Germania e che si rivolge solo ed esclusivamente ai tassisti con licenza regolare. È un sistema di prenotazione taxi attraverso l'app che ti dà, alcune possibilità in più rispetto al modo tradizionale che noi conosciamo per prenotare un taxi, nel senso che l'app ti identifica esattamente il punto in cui tu sei, quindi mandi la chiamata, vedi il taxi che risponde alla tua chiamata, puoi seguire il percorso del taxi mentre ti sta raggiungendo, diciamo sotto casa o nel posto di lavoro, vedi chi è il taxista che ti viene a prendere e che macchina ha il taxista che ti viene a prendere, e poi cominci con lui questo viaggio. Diciamo, è un'applicazione molto avanzata perché appunto è nata nel 2009, esiste già da 6 anni ed è molto diffusa in Europa, e ha una caratteristica fondamentale che è quella che puoi fare il pagamento tramite app, quindi tu alla fine della corsa basta solo che con il tuo smartphone fai il gesto normale di scorrere per pagare e l'operazione è fatta. Elimini tutto il cartaceo in questo modo, quindi la ricevuta non ce l'hai più, ti arriva direttamente su mail, e quindi sia nel caso appunto di viaggi di lavoro sia anche nel tuo caso personale, diciamo di spostamenti personali, hai sempre una documentazione dettagliata. Quindi mi verrebbe da dire radio taxi caput. Ma no, perché i radio taxi fanno un mestiere diverso, devo dire, cioè il radio taxi prende la chiamata telefonica, il che vuol dire è un mestiere che noi non facciamo, cioè che l'app di MyTaxi non quindi fa. Quindi vuol dire ci saranno sempre i clienti che vogliono fare quello. Esisteranno sempre, ma come esisteranno anche sempre clienti che non usano lo smartphone come telecomando della nostra vita. Sì, sì. Sembra strano, ma purtroppo a volte può succedere anche questo. O comunque se ci mettiamo in una prospettiva di medio periodo, sicuramente conviveranno le cose. Poi nel lungo periodo non lo so. Esatto, no, però secondo me la convivenza ancora per un po' ci sarà, perché la giovane generazione digitale. Senti, ma ne esistono delle altre di app del genere? Ne esistono tante. Esatto. E perché dici MyTaxi? Perché uno dovrebbe... Beh, MyTaxi intanto... Allora, io ti ho invitato perché ho provato MyTaxi all'estero, insomma ho visto l'applicazione, secondo me è fatta molto bene, anche perché essendo nata nel 2009, in sei anni... Insomma, è un'applicazione tedesca, esatto, che appartiene a un gruppo abbastanza grosso, Daimler, al 100% Daimler, è stata acquisita Mercedes, esatto, è stata acquisita a settembre del 2014, quindi da poco. Prima Mercedes era uno degli investitori che hanno fatto crescere l'app in questi anni, poi a settembre del 2014 l'ha acquisita. Perché MyTaxi e non le altre app? Ma guarda, la risposta dal mio punto di vista ovviamente è abbastanza semplice, nel senso che intanto MyTaxi ha 10 milioni di utilizzatori in Europa e già 45.000 taxi registrati. Esiste in Spagna, in Austria, in Polonia, in Germania, e adesso ci affacciamo anche sul mercato italiano. Quando sarà operativa in Italia? Dal 13 di aprile lanciamo ufficialmente il nostro servizio, tra molto breve, dal 13 di aprile sarà possibile per tutti scaricarla e cominciare ad utilizzarla. Senti, si può pagare, perché il pagamento è importante, visto che parliamo spesso di pagamenti elettronici, io sono un grande sostenitore di pagamenti elettronici, con che cosa si può pagare? Con la carta di credito. Solo? Carta di credito o prepagate, inserite sulla, anche la prepagata normale, PostePay, qualunque tipo di prepagata, lo inserisci nel momento della registrazione a MyTaxi e dopodiché viene utilizzata in automatico. La cosa interessante è che puoi farlo, se sei una persona che ha una carta di credito aziendale, puoi farlo con più sistemi di pagamento, quindi la tua personale, la carta di credito aziendale, la prepagata, e a seconda del tipo di viaggio che fai utilizzi uno strumento diverso di pagamento. I tassisti come reagiscono? Perché è un mondo dove ci sono persone, anche giovani, che capiscono l'evoluzione tecnologica, altre che magari faticano un po', ma come tutti i settori, cioè non è che i tassisti sono diversi dagli altri. No, infatti, devo dire che per i taxisti è una grande opportunità in questo momento MyTaxi, perché è un'innovazione che consente al mestiere di taxista di affrontare le esigenze del XXI secolo. È molto semplice, molto intuitiva. In questo momento, tra l'altro, è, diciamo, un sistema attraverso il quale puoi fare, visto che noi partiamo da Milano, puoi essere anche molto più friendly nei confronti dei turisti, perché ovviamente se non parli le lingue l'app ti disintermedia la necessità di dialogo, perché puoi anche inserire la destinazione finale. Ma diciamo che quindi rappresenta un nuovo modo di svolgere un mestiere assolutamente fondamentale all'interno delle città. Quindi grande interesse e anche grande entusiasmo, perché MyTaxi si va in questo momento a inserire in un contesto dove ci sono grandi cambiamenti in corso, e il fatto che comunque noi lavoriamo solo con i tassisti con licenza, quindi solo con le auto bianche, per loro è una garanzia. Sì, sicuramente, come dicevamo prima, ci sono tante altre app, alcune vacillano un po', non sono ancora mature, sono anche fatte magari da giovani start-up, altre da entità che forse non hanno investito quanto dovrebbero investire. Oramai l'app diventa strategica, quindi bisogna investire soldi, avere una bella app che funzioni molto bene, che possa permettere di fare il pagamento, tutto quello che voi avete spiegato e raccontato. Ma se un tassista vuole avere due o tre app, cioè funziona come con Radio Taxi, per cui io sono associato e abbonato a un Radio Taxi, oppure? Noi non richiediamo nessun tipo di esclusiva. La registrazione a MyTaxi è gratuita, e nel momento in cui un tassista non vuole più usare MyTaxi, semplicemente elimina l'app dal suo telefonino. Le uniche cose che noi chiediamo ai tassisti nel momento in cui li registriamo sono la documentazione relativa alla loro licenza, all'esame che hanno sostenuto. Riteniamo che questo sia una garanzia non soltanto per noi, cioè non è a noi che dobbiamo, non è nei nostri confronti la garanzia nei confronti dell'utenza finale. Come tutti ormai sappiamo, i tassisti sono un settore fortemente regolamentato, e questo consente all'utente che utilizza il taxi di essere garantito, perché è la licenza registrata, perché è il comune controllato. E in questo modo noi garantiamo questo tipo di diciamo sicurezza a tutti i nostri clienti e utilizzatori. Sì, un particolare che è entrato nell'uso con internet, cioè quello della valutazione, e nel caso specifico della valutazione del tassista. Viaggio e del tassista. Si può valutare il tassista? Sì, le stelline. Abbiamo un sistema di stelline che dice com'è stata la tua esperienza di viaggio. Quindi se un tassista non è gentile, non ha la macchina pulita, puoi dargli una stellina, ecco, esatto, diciamo che poi comunque... Se invece è molto gentile, molto simpatico, gli do 5 stelline. E anche proprio al servizio, perché che cosa punta a creare MyTaxi? MyTaxi punta a creare un servizio servizio, diciamo, non mi piace il termine ma non ne trovo nessun altro sostitutivo, VIP, nel senso che un sistema taxi che funzioni, che quindi garantisca la macchina pulita, il veicolo pulito. Alcuni dicono dovrebbe essere lo standard, però esatto, visto che non, però, è lo standard, visto che non è lo standard, cerchiamo di farlo. E anche l'approccio tra il rapporto tra il tassista e il passeggero, un approccio diverso, per cui l'obiettivo di MyTaxi è anche quello di mettere il tassista nelle condizioni di poter garantire sempre un servizio di livello. Sì, torno a dire una cosa che ho detto all'inizio, noi stiamo parlando naturalmente del mondo dei taxi, ma alcune dinamiche, alcune innovazioni si possono poi, se ben percepite, utilizzare anche per altri settori. Ad esempio, quello che abbiamo citato è diventato un po' uno standard di molti servizi, cioè quello delle stelline, che sono 5 sempre. Che se valutiamo un hotel, se valutiamo in questo caso il tassista, il ristorante, qualunque cosa. 5 stelline è diventato uno standard, che è interessante. Senti, tu hai detto che è gratuito per i tassisti, ma quindi voi come ci guadagnate? Allora, adesso i tassisti, l'iscrizione è completamente gratuita. Per i prossimi 6 mesi, tra l'altro, per i tassisti sarà proprio gratuito in generale l'utilizzo del servizio per 6 mesi. Poi ovviamente insieme ai tassisti che fanno già parte, che si stanno iscrivendo, diciamo, al servizio MyTaxi, durante questi 6 mesi di sperimentazione gratuita noi decideremo insieme a loro e valutando il tipo di lavoro che viene fatto nello specifico sulla città di Milano quale sarà, diciamo, la fee di MyTaxi, che può essere o in percentuale o quota fissa. Perché funziona così in tutto il mondo, nel senso in anche tutti gli altri paesi europei, non c'è un'unica quota che MyTaxi chiede, non so, in Spagna o in Germania o in Austria o in Polonia. Viene fatta una specifica analisi insieme ai tassisti e si stabilisce insieme alla fine di questo periodo di sperimentazione di 6 mesi gratuito quale sarà il corretto corrispettivo che MyTaxi prende sulle corse. E questa è l'altra grande differenza, cioè con MyTaxi tu paghi solo ed esclusivamente sulla corsa che MyTaxi ti dà. Ah, non c'è un abbonamento? Non c'è un abbonamento, assolutamente. Non paghi mai niente, quindi se tu lavori tanto, ovviamente sarà la percentuale o la fee, diciamo come la vogliamo chiamare, resta fissa, ma più noi corse ti diamo, ovviamente più lavoro tu hai. Ma se ad agosto non succede niente, ad esempio non a Milano, niente, non hai niente da pagare. Senti, ma potrebbe quindi succedere che ci siano tariffe diverse, accordi diversi in base anche alle città? Perché immagino che dopo Milano andrete a Roma. Sì, ci muoveremo, Torino, e cominceremo, Firenze, a espandere il servizio. Sì, che so, anche a Venezia con i taxi in barca, con i vaporetti. Esatto. Sì, sì, in effetti funziona in tutti i modi, nello stesso identico modo, ma potrebbe anche essere che la tariffa sia diversa da città a città. Ci sono già casi in Germania dove ci sono, convivono tranquillamente diverse tariffe all'interno degli stessi territori. Ho una domanda che probabilmente dovrei fare alla Daimler. Sì, però vediamo. Sei qui tu, devi parlare tu. Allora, le barriere all'ingresso in questo settore non sono tanto alte. Allora, è vero che fare una buona app richiede investimenti abbastanza, non stiamo parlando di milioni di euro, però ma anche 100, 200, insomma, si può. Non, io sconsiglio di fare un'app da 3.000 euro. Ecco. Anche io, anche da 10, 15, ecco, devo diciamo, dire. Esatto. Perché poi c'è chi crede e dice, ma vabbè, con 20.000 euro faccio una bella app. No. 100, 200.000 magari sono un investimento più, poi vanno anche aggiornate le cose. Però le barriere all'ingresso non sono effettivamente tanto elevate. E quindi come ci si difende in questo mercato? Perché domani una delle tante app che stanno nascendo sul mercato, che già esistono sul mercato, potrebbero diventare effettivamente molto più belle della vostra. Potrebbe succedere, ne dubito. Chiarissima la domanda che mi hai fatto. Cioè, così come, scusa se ti interrompo, così come MyTaxi è paragonabile come user experience a quella di Uber, che viene spesso ritenuta come applicazione, non parlo del servizio perché poi i tassisti se no mi scrivono, parlo dell'applicazione, parlando di tecnologia, è ritenuto uno standard che viene preso a riferimento. Voi dimostrate che si può fare una roba uguale ma con caratteristiche diverse, perché ci tengo a precisare che il fatto di lavorare solo con i tassisti con licenza è una scelta voluta, nel senso che non vogliamo, non abbiamo nessuna necessità di modificare il quadro normativo. Però, diciamo, dall'altra dal punto parte, di vista tecnologico l'app è molto evoluta, esattamente come da un certo punto di vista è l'altra app che tu hai citato. Ma diciamo, intanto siamo nati nel 2009 e quindi abbiamo 6 anni di esperienza alle spalle di vantaggio sulla concorrenza. Secondo, i numeri parlano molto chiaramente, perché abbiamo 45.000 taxi registrati già in Europa e 10 milioni di utenti che utilizzano regolarmente l'app. Quindi anche oggi, se dovesse uscire un'app diversa e sul mercato magari molto bella, devi fare tutta la strada che noi abbiamo fatto prima. Secondo, il meccanismo non è mai solo legato all'innovazione tecnologica. Quello che ci sta dietro ovviamente è anche molto investimento in termini di marketing e di comunicazione, che è quello che noi cominceremo a fare a breve a Milano. Terzo, quello che diciamo ci tranquillizza è che, essendo già diffusi in Europa, si sta creando uno standard My Taxi, nel senso che per utilizzare o andare a prendere i taxi, certo questo è uno dei grandi vantaggi delle app sovranazionali, internazionali. Io vado in un ma basterebbe pensare anche solo ad una singola nazione, io cambio città ma posso usare la stessa applicazione. Ma questo vale anche per i trasporti pubblici, penso e spero che un giorno ci sono già alcuni servizi. Se anche le aziende municipalizzate si mettessero d'accordo e facessero un'unica app. Ma c'è già. C'è già, ma non è dell'emanazione che ti riferisci a Moovit. Sì. Esatto. Esiste, c'è ed è presente in tutto il mondo, fa dei numeri che sono però pazzeschi. Vedi, anche nel utilizzando quel concetto che viene spesso citato nella pubblica amministrazione del riutilizzo del software, visto che ATM Milano ha una buona app, le altre municipalizzate, invece di farsi la propria app, dovrebbero unirsi ad ATM e dire: facciamo un'unica app che ha lo stesso motore, lo stesso. Sarebbe molto bello se succedesse, ma come tu sai, il campanilismo italiano ancora impera. Bene, ringrazio Barbara Covili per essere venuta a trovarci e in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie mille. Naturalmente esistono anche altre applicazioni, ma al momento nessuna che raggiunga certi standard miei, a mio sì insindacabile giudizio. Comunque, insomma, se sentite un po' il mondo di chi sviluppa applicazioni, nessuna delle altre applicazioni disponibili sul territorio italiano raggiunge certi standard di usabilità e anche di completezza, e la parte dei pagamenti è sicuramente una parte molto importante, come altre applicazioni come quella di cui abbiamo parlato in questa puntata di 2024. Ci sono molte altre applicazioni anche all'estero, quindi vedremo se nei prossimi mesi o nei prossimi anni arriveranno altri player in questo mercato che sta diventando sempre più competitivo. Poi una cosa importante in questo settore: non bisogna riprodurre le logiche del mondo, del vecchio mondo analogico. Ad esempio, il fatto dell'esclusività, mi piace molto il fatto che in questo caso non ci sia un'esclusiva, quindi uno può avere anche 8 applicazioni e rivolgersi al mercato. Ma chiaramente, se uno è abituato a certe vecchie logiche, è difficile uscire da queste logiche, un po' come è successo per la fatturazione elettronica. Continuo a ricevere email su questo tema e sono convinto che si sarebbe potuto fare in modo molto più semplice, ma soprattutto la domanda è: ma siamo sicuri che non si poteva trovare proprio un altro modo che va al di là delle logiche della fattura? Cioè, grazie al digitale si possono fare cose in modo diverso e non digitalizzare le stesse cose con le stesse complicazioni e tutta la stessa burocrazia. Bene, come sempre grazie per la vostra attenzione, grazie per aver seguito questa puntata di 2024 anche nella sua versione podcast. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi all'indirizzo 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana. 2024.